Cialtroni nello spazio, puntata numero 9, la prima del 2006. Buon anno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, a Marco e Alessandro. Ciao a tutti. Un saluto dai Cialtroni nello spazio per la prima puntata dell'anno. Quest'anno iniziamo in diretta, infatti sono le 12.42 minuti, siamo sulle frequenze di Radio Onda d'Urto e oggi andremo a parlare di varie cose, dato e considerato che nelle ultime due settimane le puntate sono state un po' speciali perché la settimana scorsa non ci siamo stati, la settimana prima eravamo in campagna abbonamenti, abbiamo fatto una puntata revival con diversi ospiti che tra l'altro a me è piaciuta molto quella puntata, Marco, non so perché mi guardi così perplesso. Comunque, no, di che cosa casino, cioè, era bello, c'era un sacco di gente, però vabbè, forse non era stata molto comunicativa, però vabbè, dai. Allora, di che cosa andiamo a parlare oggi, Alessandro? Andiamo a parlare con un po' di news. Andiamo dunque a un aggiornamento sul DRM Sony, una falla del WMF, che è un formato di Microsoft per i formati multimediali. Falla non ancora corretta. Un po' di notizie, vari aggiornamenti di cose che sono successe nelle ultime due settimane, presentazione di un nuovo sito musicale e se riusciamo anche a proporre una nuova soluzione di TV, di streaming TV, e proporre, insomma, far vedere un po' come funziona e quali potrebbero essere evoluzioni future. Iniziamo con la falla del DRM Sony, ne abbiamo parlato molto nelle scorse settimane, il caso del rootkit che si trova nei CD e che veniva installato automaticamente qualora si inserisse un CD protetto con queste, diciamo così, protezioni anticopia della Sony, erano stati infettati centinaia di migliaia di computer, scusami. E questo rootkit che andava appunto a ledere abbastanza pesantemente il livello di sicurezza di un PC Windows. E chi di musica ferisce, di musica perisce. La Sony è stata infatti condannata a regalare, restituire in un certo senso, è vero, perché erano tutti gente che aveva comprato legalmente il computer, che poi si è trovata il computer. E poi si è ritrovata con il computer danneggiato. E adesso, oltre a restituire dei soldi per quanto riguarda la vicenda, dovrà anche permettere di fare dei danni, dei download gratuiti per risarcire dei danni procurati ai propri clienti. Questo il software del DRM aveva, ricordiamo un po' quali erano i problemi che causava. Tu lo inserivi e cosa provocava? Beh, installava in gergo tecnico un rootkit, ovvero sia un programma invisibile dal resto del sistema e che si metteva a controllare determinate cose, permetteva l'utilizzo del CD inserito, CD audio inserito soltanto in un determinato modo, e andava a invalidare la possibilità di prendere i dati in formato, estrarre i dati in formato digitale da questo CD, quindi andava a invalidare una possibilità di fare una copia identica all'originale, cosa che invece è addirittura, cioè è legale nell'utilizzo corretto di un oggetto che è stato acquistato. Un caso un po' particolare anche perché i tentativi di riparare il danno tramite le solite patch che venivano messe a disposizione avevano dato dei risultati contrari alle aspettative e avevano indebolito ancora di più il sistema operativo del consumatore. Un bel pasticcio, adesso c'è stata questa sentenza e Sony dovrà sostituire i CD pericolosi con dei CD senza DRM, risarcire i propri clienti con un assegno di $7.50 e offrire in download gratuito un album della Sony da scegliere tra una lista di una ventina di album. Chi non volesse l'assegno può in alternativa ottenere lo scaricamento gratuito da internet di 3 album Sony. Ovviamente i software anticopia in questione non potranno più essere inseriti nei CD. Quindi insomma una prima sentenza di questo tipo che arriva contro una major discografica e contro i suoi sistemi di protezione per le copie. E quindi questa, diciamo, è un'ottima notizia. Adesso non so la situazione dell'azione legale portata avanti al CEI qua in Italia, a che punto sia, però speriamo che arrivi qualcosa anche da quella direzione. Ma non è l'unica falla di cui dobbiamo parlare oggi, la prossima di cui andiamo a parlare adesso è più, diciamo così, usuale, perché si tratta di una falla di Windows e purtroppo negli ultimi anni ci siamo veramente dovuti fare l'abitudine, abbiamo dovuto fare l'abitudine rispetto a quello che succede in casa Microsoft. Marco? Ma in particolare questa, ti voglio correggere subito, non è una falla, perché è invece una scelta deliberata fatta probabilmente circa 15 anni fa, quando era stato creato il formato WMF, un formato grafico vettoriale creato da Microsoft. Quando era stato creato quelli per vedere le immagini, insomma. Esatto, sì. Quando era stato creato questo formato di immagine, era stato inserita la possibilità di inserire del codice eseguibile all'interno di questa immagine. Con il risultato che oggi qualcuno si è accorto di questa funzionalità dimenticata all'interno di tutte le release di Windows, da probabilmente ancora da Windows 3.1 fino a quelle correnti, perché qualcuno si è accorto di qualcuno maliziosamente si è accorto di questa cosa, di questa caratteristica, e ha cominciato a diffondere su internet dei worm, ovvero sia dei virus che si propagano infettando i computer attraverso vari mezzi, appunto, in modo che questo virus riesca a propagarsi utilizzando appunto questa caratteristica particolare di questo formato di stampa. Questo va a creare, a parte vabbè, il classico problema di immagine tremendo di sicurezza che Microsoft ha, che dimostra per l'ennesima volta che tutti i software creati dalla Microsoft alla fine sono stati progettati senza considerare seriamente i problemi di sicurezza. E però questo problema diventa pesante soprattutto dal punto di vista degli utenti, perché non c'è ancora un modo ufficiale per risolvere questo problema. Quindi sostanzialmente tu navighi in internet, se qualcuno ha messo un po' malizioso un'immagine un po' particolare sul suo sito internet, tu stai navigando utilizzando per esempio Internet Explorer, utilizzando il sistema operativo della Microsoft, tu sei a rischio che sul tuo computer possa essere eseguito del codice. Esatto, e questa cosa è abbastanza frequente, ad esempio, non so, magari a tutti noi è capitato di digitare il nome di un sito sbagliato al posto di www.radioondadurto.it, di digitare magari qualcosa di sbagliato e scoprire che qualcun altro si è preso quel dominio, e a quel punto magari questo qualcuno in questo dominio fasullo inserito ci mette dentro un'immagine appunto fornita di questo virus e permette di infettare il computer appunto di colui che sta guardando. I modi di propagazione non sono solo questi, infatti è possibile che questi file infettati vengano distribuiti via mail, ad esempio, oppure via sistemi di messaggistica come MSN, ICQ o Jabber o qualsiasi altro, insomma. Le modalità sono innumerevoli. Ecco, come ci si può difendere da questo virus? Allora, cito l'articolo di Paolo Attivissimo, che troverete anche nei link della trasmissione poi sul nostro sito radio.circolab.net. Esatto, e appunto i consigli che Paolo Attivissimo dà sono quello di non utilizzare Internet Explorer e sostituirlo con Firefox o con un altro browser che non aprono direttamente i file in formato WMF, ma chiedono prima all'utente la conferma dell'apertura di questo file. Poi non utilizzare Outlook, che è il programma di posta, perché questo in immediato va a visualizzare tutte le immagini presenti nella mail, oppure non so se è possibile dire a Outlook di non visualizzare in automatico le immagini presenti nella mail. A quel punto disabilitare il componente di Windows, la DLL di Windows sballata utilizzando un comando da prompt dei comandi, non utilizzare Google Desktop, che indicizzando anche i file in formato WMF riesce a attivare i file appunto infettati, e Addirittura il consiglio è quello di utilizzare una page di sicurezza non ufficiale che è stata distribuita da un hacker russo che si chiama, non trovo il nome. Va bene, niente. Cioè, quindi insomma c'è una patch di sicurezza anche se non è ufficiale di Microsoft, ma però è consigliata, cioè, altamente, perché va semplicemente a disabilitare le funzioni di WMF presenti dentro Windows. E quindi questi consigli, oltre ovviamente al consiglio di non utilizzare un PC Microsoft se è possibile, dato che questo formato non infetta computer per esempio Linux o Macintosh. Il programmatore russo si chiama Ilfak Gulfanov, ha prodotto una patch non ufficiale linkata da moltissimi siti, per cui non ci mettete molto a trovarla, e vi consigliamo caldamente di utilizzarla. Va bene, per quanto riguarda questi due macro news mi sembra che sia tutto. Andiamo a sentire un po' di musica e cogliamo l'occasione per presentare un progetto che è nato recentemente, anzi è nato con l'inizio dell'anno, si chiama CC365. E si propone... CC sta per Creative Commons. Esatto. Vabbè, adesso un attimo che arriviamo. Il progetto portato avanti sul sito IndieIsh, scritto indie come indie indipendente, SHISH, e comunque vabbè, per il link fate riferimento sempre al nostro sito. E dunque questo tale Grant Robertson, che è il gestore di questo sito, che è più o meno un attivista politico in senso lato, ha deciso di aderire alla campagna The Revolution, che propone sostanzialmente dei brani Creative Commons, diciamo organizzati in archivio come già avevamo visto Anula eccetera, però con questo progetto CC365 si propone di presentare ogni giorno un brano musicale con tanto di recensione e di renderlo disponibile in MP3. Poi ovviamente sono tutti disponibili, nel senso anche quello del primo, del secondo e del terzo giorno. C'è un calendario ed è possibile iscriversi in RSS, che sono i formati di invio delle notizie di cui avevamo già parlato. E quindi ascoltiamo il brano di oggi, che si chiama The Text Adventure, Kill Meu è l'autore. E assomigliano, come dice anche la recensione, vagamente ai Postal Service, che sono un gruppo indie elettronico. E questo è il brano. So torniamo. Si alzi il micro. Ok, torniamo quindi in diretta. Cialtroni nello spazio. Andiamo adesso a vedere altre news che riguardano appunto il mondo del software libero e del free software. Ma allora presentiamo un sito che ho trovato abbastanza carino, si chiama www.veopencd.it, è la versione italiana di un progetto internazionale che è invece estensione.org. Allora, l'obiettivo di questo collettivo è quello di proporre un CD o comunque una raccolta di software eseguibile sotto Windows che però abbiano licenza libera. Diciamo che questa non è una scelta condivisa da tutto l'ambiente che gravita intorno al software libero. Insomma, è un po' come comprare i prodotti ecosolidali nelle grandi catene commerciali, tanto per fare un paragone con la vita comune che viene spesso tirato fuori nei dibattiti. Comunque, vabbè, è uno strumento utile per chi si vuole approcciare ad altri strumenti, come molti che abbiamo presentato anche noi. Come OpenOffice, Firefox, Thunderbolt, eccetera, senza cambiare sistema operativo e diciamo in prospettiva per avvicinarsi a questo mondo in maniera un po' più semplice e nel tentativo poi di cambiare sistema operativo. Insomma, un modo per fare una transizione meno dolorosa verso i sistemi basati su software libero. Esattamente, in modo che imparare ad usare gli strumenti che si troveranno poi su un sistema di tipo Linux o FreeBSD, insomma, vabbè, comunque parlando anche solo di Linux, cominciare ad utilizzare gli stessi strumenti sia su un sistema operativo che sull'altro, concentrarsi prima su quelli che sono generalmente quelli usati dagli utenti e poi cambiare sistema e quindi preoccuparsi di tutto il resto delle cose, l'esplorazione delle risorse, la ricerca dei file, le periferiche, insomma quelle cose che riguardano il sistema operativo. Ecco, qualche esempio di software che troviamo all'interno del CD? Allora, innanzitutto c'è la presentazione del progetto che presenta un po' cos'è l'open source. Comunque c'è suggerimento ad una distribuzione di uso semplice come la Ubuntu che permette anche tra l'altro di non essere installata ma di essere semplicemente inserita nel computer, riavviare il computer e poi parte. Sì. Se tutto va bene, avete un sistema Linux funzionante senza danneggiare in alcun modo il vostro computer e potete insomma farvi un'idea senza nemmeno, diciamo così, installare quelle che è la distribuzione vera e propria, ma semplicemente utilizzandola da CD. Ad esempio, invece poi propone appunto un elenco diviso in grandi capitoli di software, ad esempio nella produttività, inteso come generazione di file di testo o simili, troviamo AB Word e OpenOffice, che sono due, AB Word è un word processor tipo Word, Microsoft Word, mentre OpenOffice è l'intera suite di cui abbiamo già parlato, PDF Creator, che è un altro software di cui abbiamo parlato per generare PDF, EnView, che è l'equivalente di FrontPage. Per la grafica troviamo ovviamente GIMP, Inkscape, di cui abbiamo già parlato, altri due software che avevamo tralasciato perché diciamo più di nicchia, tipo Dia, che è in grado di fare diagrammi, grafici UML, che vabbè, dubito, sono dei grafici che usano i professionisti del software, e comunque in generale grafici. In internet troviamo Firefox, e Game per le chat, Thunderbird, e comunque ci sono anche altri due o tre chicche o applicativi più diciamo più di nicchia, comunque servono a fare cose più ristrette che però possono essere utili. Ecco, tra i giochi per esempio cos'è che c'è? Perché il campo dei giochi forse è quello un po' più difficile nel software libero, non c'è molto. No, diciamo che l'industria dell'intrattenimento, del videogame, un'industria che richiede tanto lavoro, soprattutto per gli accessori, diciamo la produzione dei fondali, del character design, quindi di tutta quella parte che è diciamo più artistica che di programmazione, e quindi diciamo che negli ambienti open source tendono un po' a scarseggiare i giochi, soprattutto quelli graficamente più evoluti. Esistono cose abbastanza minimali oppure traduzioni di giochi già esistenti. Difatti quelli che ci sono presentati sono proprio riscritture. Breakout, bellissimo, ci giocavo da piccolo. Riscritture di videogiochi insomma abbastanza datati e storici. Comunque vabbè, fatto abbastanza bene. C'è una pagina per ognuno dei software presentati con gli screenshot, cioè le fotografie delle immagini del programma, il link per l'eseguibile di installazione, il sito web di riferimento, un indice di complessità del software, quanto è grande, la licenza, la versione. Ecco, questi siti di solito hanno il problema di essere poco aggiornati o comunque di nascere sotto l'impeto di un interesse momentaneo e poi di restare un po', diciamo, arretrati rispetto alle evoluzioni che questi software hanno, che sono generalmente mensili o bimensili. Questo visto che è abbastanza aggiornato, anche perché è legato a progetto internazionale, quindi diciamo che per i neofiti è un buon punto di riferimento. Adesso passiamo a un altro argomento da guardare in profondità, un argomento di cui ci parla il nostro Marco. Ciao Marco. Ciao, allora, l'argomento è la televisione, considerato come metodo di fruizione dell'immagine visiva più o meno passivo, per cui una persona si piazza davanti alla televisione, ha una serie di canali da cui scegliere e insomma la televisione che abbiamo tutti a casa. Le tecnologie odierne infatti ci permettono di utilizzare internet per fruire a un servizio di tipo televisivo e appunto cito un articolo, prendo spunto da un articolo di Punto Informatico di questi giorni appunto per parlare di un po' di questi, di un in particolare di un sistema che permette di utilizzare il nostro computer, la nostra connessione a banda larga tipo ADSL per fruire a un'immagine tipo di tipo televisivo. Allora, come funziona? Allora, il sistema si basa fondamentalmente su due grossi mattoncini. Uno che è, sono i sistemi BitTorrent, che permettono di distribuire in modo efficace in internet un determinato file, un determinato contenuto, in modo da in modo che ogni persona che partecipa allo scaricamento di tale contenuto deve partecipare anche a fornire agli altri che stanno scaricando il contenuto una parte di questo contenuto, in modo da distribuire la banda utilizzata e permettendo una distribuzione molto migliore, molto più efficace dello stesso contenuto. Questo è il sistema appunto di BitTorrent. Questo sistema viene associato ai sistemi di RSS, Really Simple Syndication, che sono i sistemi che permettono ad esempio di fruire delle news di un sito e che possono essere fruite in maniera intelligente, in quanto queste news vengono passate con un formato definito a un lettore di questo formato RSS, che quindi lo può integrare e posizionare, può utilizzare nel modo preferito. Addirittura ci sono dei sistemi RSS che all'arrivo di ogni nuova news aprono un rettangolino in basso nello schermo e ti fanno vedere la news, la preview della news, o altri sistemi del genere. Questo sistema di RSS insieme a questo sistema di BitTorrent permettono di distribuire dei contenuti video a scadenze temporali predefinite, in modo da permettere in modo da creare una programmazione che una persona normale può semplicemente utilizzando un software che fa la commistione appunto tra questi due, che si chiama TVRSS, di cui Alessandro Tornati ci darà il link, sì, che appunto permette di sincronizzarsi con questo flusso RSS e di scaricare a, non so, a ogni tanto una, quando uno di questi filmati viene reso disponibile, in modo da andare a creare un flusso video continuo che può essere utilizzato poi in, da può essere guardato su un monitor da computer, a quel punto permetterci di avere un canale che stiamo seguendo e di prendere i contenuti di questo canale, che questo canale vengono, che questo canale distribuisce. In pratica, qual è l'evoluzione rispetto al BitTorrent tradizionale, insomma il file sharing normale basato su BitTorrent? È che è il tempo reale, cioè esce la notizia che dice adesso inizia la trasmissione. In realtà la trasmissione è già presente, viene solo pubblicata in quel momento, però il fatto che tutti si colleghino a vederla genera una rete molto grande e una quantità di possibilità di traffico che permette a tanti utenti di collegarsi e vedere la trasmissione, e questo non uccide il server che sta trasmettendo la trasmissione, cosa che invece regolarmente viene fatta negli streaming tradizionali, che è un po' poi il problema attuale delle tecnologie di streaming, cioè che c'è un solo punto che trasmette la sorgente e tutti gli altri si attaccano lì. Il problema oggi dello streaming televisivo è che non ci sono tecnologie di banda che permettono, o perlomeno sono molto costose, che permettono la trasmissione da un unico punto centrale. Queste tecnologie, questi avanzamenti permettono una trasmissione, uno streaming che può effettivamente arrivare a un grandissimo numero di persone, perché il fatto di ricevere e di trasmettere fa sì che ognuno sia ricevitore e trasmettitore dello streaming televisivo, cioè di quello che vede. Cioè in un certo senso l'RSS vi dice andate tutti a vedere, sfruttando le proprietà di BitTorrent, che più gente c'è che sta utilizzando uno stesso file e più è facile che questo file venga fruito, proprio perché c'è più banda, al contrario dei software tradizionali per lo scaricamento tipo FTP, che partono da un punto. Più ci sono punti, ciascuno scarica un pezzettino diverso e ne mette a disposizione un pezzettino che ha già, e il flusso diventa continuo, e quindi insomma sembra veramente interessante come tecnologia. Beh, la tecnologia di BitTorrent fa gola a tantissimi, perché appunto risolve questo problema, che è un problema che hanno, vabbè, ovviamente i produttori di media indipendenti, che generalmente non hanno grandi fondi per avere grandi strutture, grandi bande, però fa molto gola anche alle grossi produttori di streaming, tant'è che il protocollo di BitTorrent è stato più o meno comprato, acquisito da varie case, almeno la possibilità di utilizzarlo. Un'ultima opera che l'ha integrato nel suo browser, comunque svariati stanno tentando di integrare questo protocollo. Ha di positivo che, essendo nato open source, resterà sempre disponibile come software libero, come software open, per qualsiasi tipo di applicazione, e quindi senza dover pagare le royalties sul protocollo. Su questo protocollo si basa anche un altro progetto che si chiama Peercast, che è l'equivalente per le radio fondamentalmente, e anche lì tenta di risolvere lo stesso problema dello streaming da un punto centrale. Semmai ne parleremo meglio in un'altra occasione. Infine, in chiusura, ancora qualche news prima di lasciare la linea Biovera. Allora, un paio di news proprio sul peer-to-peer. Allora, in Francia, in conclusione di anno, probabilmente sotto stati alcolici alterati, il Parlamento, la Camera Bassa del Parlamento francese, ha approvato una legge che ricalca molto da vicino un'idea delle FF, di cui abbiamo parlato spesso, In pratica introduce un canone mensile, si parla di una cifra intorno ai 6,5 euro, con i quali gli utenti peer-to-peer possono compensare i detentori di diritti d'autore e garantirsi la possibilità di scambiarsi l'un l'altro i contenuti. In pratica, come funziona quindi? In pratica se tu sei un utente, vuoi condividere attraverso un collegamento internet a DSL, vuoi condividere dei file via peer-to-peer, quindi con Emule o con altri software o BitTorrent eccetera, puoi farlo pagando questo canone e puoi trasferirci sopra anche materiale protetto da diritti d'autore. Gli autori non possono vietare la riproduzione di opere in qualsiasi formato in un servizio di comunicazione online quando si intende utilizzarle a scopi privati. In pratica, se chi non fa uso di questo materiale a scopo commerciale o comunque le solite diciture legali, può scaricarsi il materiale e ascoltarselo, che ovviamente all'interno dell'Unione Europea o comunque in generale delle porzioni di mondo che aderiscono al Trattato di Ginevra, che protegge appunto il diritto d'autore, è un'eccezione clamorosa, tant'è che si prevedono comunque grosse opposizioni per l'approvazione al Senato, la probabilità che, anzi è quasi scontato che la legge tornerà nella Camera bassa e che verrà modificata. Comunque di fatto la proposta adesso ha superato il primo stadio del Parlamento francese, e ovviamente grossa levata di scudi della SACEM, che è l'equivalente della CIA in Francia, prese di posizione di artisti vari per la difesa del copyright, e comunque staremo a vedere come va a finire la stessa. Allora, tra l'altro, tutta questa cosa, che è solo un comma di una legge più articolata che cercava di recepire la direttiva europea sul diritto d'autore, l'EUCD, che in Italia invece è stata recepita dal decreto Urbani e poi legge Urbani, e comunque appunto faceva parte di questa legge, che invece ha altri punti più diciamo più dibattuti, un po' pasticciati. Insomma, anche in Francia si sta ripetendo quello che è successo in Italia, insomma, leggi fatte in maniera un po' improvvisata e soprattutto da persone poco competenti. Diciamo che ai francesi forse andrà meglio, nel senso che invece di avere una legge molto restrittiva come quella che abbiamo avuto noi, potrebbero averne una addirittura rivoluzionaria da questo punto di vista. Vedremo come va a finire, sicuramente l'episodio è eclatante. Anche in Australia si sta muovendo qualcosa, si prevede si prevede un adeguamento della legge australiana nel 2006, che permetta il cosiddetto fair use, cioè la copia privata, quello che normalmente qui in Italia era consentito prima della legge Urbani, e che poi nelle varie modifiche è stato più o meno reintegrato in maniera pasticciata. Insomma, è quella copia che se ognuno si può fare su supporti differenti, ad esempio farsi una copia dei propri CD sull'hard disk, piuttosto che, non so, fare da un CD una cassetta, esatto. Quindi diciamo due buone notizie per quanto riguarda l'uso privato e la diffusione di informazioni. E un'altra buona notizia è che, nel senso, torna un sito che si chiama Release for You, che è un sito che forniva link a file condivisi attraverso la rete di Emule, non tanto perché il sito sia particolarmente importante, ma più che altro perché stabilisce un precedente che sostiene che il pubblicare link a materiale condiviso non è un'attività illegale, e questo è un precedente importante perché fondamentalmente stabilisce la libertà di scrivere quello che si vuole su una pagina internet, al di là di quello che poi le persone fanno di quello che c'è scritto, che fondamentalmente è una libertà che sembra scontata, però bisogna sempre ribadirla, esatto, tutte le volte. E chiudiamo qui. Attendiamo che Zamp rientri in trasmissione. Sì, volevamo chiudere così questa trasmissione, la puntata numero 9. 9. La prima dell'anno, comunque, insomma. E niente, tra pochi istanti la linea passerà a Biovera. Noi vi ricordiamo che questa puntata sarà scaricabile appena Alessandro avrà tempo sul sito radio.circolab.net. E nelle prossime settimane ci saranno anche novità rispetto al Circolab, però non anticipiamo niente. Potrebbe esserci la riapertura di questo posto misterioso. Incredibile ma vero, ma è possibile. Si stanno concretizzando nonostante Speriamo. Lo spirito del maiale. Neutroni nello spazio ogni mercoledì alle 12.40 più o meno. Spazio.circolab.net oppure radio.circolab.net. Se volete contattarci sul nostro sito abbiamo una possibilità, avete la possibilità di contattarci, non mi ricordo. Vabbè, non è riuscito a dire niente, lasciamo perdere. Radio@numerica.org è l'indirizzo email.